Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Bellora. Il lino, la tradizione, gli indiani e l'America. Di Alessandra Scaglioni. L'azienda di cui parliamo oggi ha 130 anni di storia. In questo periodo si è trasformata per seguire le necessità del mercato e, in tempi più recenti, per reggere la crisi. Il prodotto sono tessuti e poi biancheria per la casa di alta gamma. Il marchio è Bellora. Alla guida dell'azienda oggi c'è Giuseppe Bellora, terza generazione. L'inizio fu nel 1883 diverte raccontarlo perché erano più famiglie di Fagnanolona, Gallarate, Busto Arsizio che si unirono e quindi mettendo insieme un po' le loro esperienze nacque la Careghini e Bellora e questa azienda nella prima fase era solo un'azienda che produceva tessuti, quindi tessuti come cotelai meccanici allora e cominciò anche l'esperienza dei tessuti di cotone, cominciò anche l'esperienza dei tessuti di lino che erano tessuti più pregiati. Il prodotto è tessuto a metraggio e in un primo momento vede coinvolta tutta la famiglia. Poi il nonno di Giuseppe Bellora si specializza. Vendevano a metraggio, sì, stiamo parlando ancora prima delle guerre, quindi diciamo c'era un grandissimo fabbisogno di tessuto, quindi stiamo parlando proprio di rivoluzione industriale. Nel momento in cui invece nel 1933, quindi sempre finale 3, nel 1933 mio nonno si separa dai fratelli, quindi questa Careghini e Bellora che diventò Bellora si divise e mio nonno, che era il commendatore Giuseppe Bellora, fondò la sua Giuseppe Bellora, che era quindi una porzione e si scelse la parte proprio liniera, perché lui aveva la passione per le cose più belle, quindi le cose pregiate. Lui era un uomo di grande cultura, ma che aveva lavorato anche in altre imprese, quindi aveva fatto tante cose e come gli imprenditori di quel periodo lì vedeva una possibilità di fare praticamente tutto. Cominciò nel 33 e cominciò a vendere i tessuti di lino, fra l'altro una cosa particolare, partendo dalla Sicilia. Andava personalmente, cliente per cliente, porta a porta, a vendere i suoi tessuti. L'attività si allarga sia dal punto di vista geografico, risalendo l'Italia, sia dal punto di vista della tipologia della clientela. Bellora diventa anche fornitore dello Stato. Una fortuna in quei tempi per i buoni pagamenti. Il nonno sale, trova un mercato molto florido in campagna, nel napoletano, poi sale ancora, arriva a Roma e diventiamo fornitori della Città del Vaticano e diventiamo fornitori dell'aeronautica, quindi entriamo anche nelle famose forniture militari che a quei tempi erano anche lì di altissimo pregio, cioè lo Stato italiano comprava con delle aste i migliori tessuti dai migliori produttori italiani e veniva mantenuto quindi un livello altissimo, soprattutto l'aeronautica nel nostro caso, però non solo, anche l'esercito, gli ufficiali, quindi si dormiva nel lino e si dormiva nel lino più bello di Bellora, quindi un sogno rispetto a quello che succede adesso. E fra l'altro le forniture militari erano molto interessanti perché c'era invece proprio il fattore del pagamento, cioè era il pagamento garantito. Il nonno sviluppa il settore dei tessuti di lino per tutte le altezze, che vende soprattutto all'ingrosso. Poi inizia a vendere a industrie note come Bassetti, Flu o Gabel. L'azienda del nonno passa al padre di Giuseppe Bellora e da qui si sviluppa quello che oggi è il prodotto Bellora e il suo marchio. Mio padre sviluppa la marca, quindi mio padre invece comincia proprio a chiamare il prodotto Giuseppe Bellora, quindi le scatole col marchio Giuseppe Bellora. Comincia a fare le fiere, quindi in quel momento c'era lo Star a Milano, c'era Pitti Casa a Firenze, che erano fiere molto importanti. Crea una rete di agenti, comincia a prendere degli stilisti esterni per cominciare a evolvere un prodotto che era tendenzialmente solo tela basica bianca, invece cominciamo a rigarla, a colorarla e a dargli dei contenuti stilistici, però sempre nel mondo fondamentalmente grossisti e B2B. La parte di sviluppo invece al dettaglio la comincio io e la comincio con mia sorella negli anni 80, perché di fatto quando siamo subentrati per cercare di dare quel qualcosa in più. Giuseppe Bellora entra in azienda nel 1987 e nel 1989 arriva anche la sorella Lorenza. Lo spazio che mi sono trovato io è stato più quello di cominciare ad andare all'export, quindi di andare all'estero. La Bellora fino agli anni 90 non era mai andata neanche in Svizzera, quindi abbiamo cominciato a esportare e mia sorella ha cominciato, siccome mia sorella invece ha studiato al Polimod e poi era stata a New York, e quindi ha invece cominciato a gestire il prodotto confezionato, cominciando a dargli un po' un suo tocco di prodotto che fosse in linea un pochino più col fashion, con la moda, con quello che è il design. Passare da industriale puro a marchio vuol dire cambiare molte cose nel modo di lavorare e di approcciare il mercato. Il marchio funziona, viene riconosciuto come alto di gamma e si diffonde con il tempo nel mondo del prodotto confezionato rivolto al consumatore finale. È andata di processo naturale, perché l'azienda aveva e ha tuttora all'interno, proprio come filosofia, la produzione di qualità, di altissima qualità e di mercato alto. Quindi, quando prima dicevo, il nonno si staccò dai fratelli perché voleva fare il purolino era una fibra naturale, nobile, alta. Mio padre ha cominciato a fare collezioni e ha seguito un mercato sempre con un posizionamento alto. Quindi diciamo che l'azienda respira l'aria della qualità e del posizionamento. Quindi noi abbiamo come figli recepito questa esperienza e abbiamo portato avanti questo. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 arriva il crollo del mercato nel settore tessile e anche Bellora ne viene investito e deve affrontarlo. Noi abbiamo iniziato a sviluppare questo concetto di collezioni e abbiamo cominciato a esportare. Però è vero che il mercato negli anni 99, 98, 99, 2000 è crollato. Quindi abbiamo avuto un'invasione di prodotti dalla Cina, dal Pakistan, dall'Indonesia, prodotti di basso costo. Abbiamo le barriere doganali sono scomparse, quindi il mercato è diventato praticamente un mercato unico, ma con un afflusso tutto all'interno dell'Italia. Ci siamo trovati che i nostri tessuti, io mi ricordo gli anni 2000, abbiamo avuto 3-4 mesi che non ricevevamo ordini, perché il tessuto che arrivava di importazione era del 30% più basso di costo rispetto a quello che producevamo noi qui in Italia. E quindi abbiamo dovuto rivedere tutto il processo produttivo. Quindi all'inizio mio padre volle reinvestire tantissimo, stiamo parlando del 98-99, che sembra 100 anni fa, macchinari nuovi di produzione, turni notturni, lavorare il sabato, lavorare la domenica, perché per lui la reazione era: dobbiamo competere con questi produttori. E in realtà purtroppo questa battaglia l'abbiamo persa, perché questi produttori sono ancora oggi assolutamente irraggiungibili, perché se si va a fare la guerra del prezzo noi non la possiamo fare con la nostra organizzazione, con i nostri costi, dei nostri operai, è impossibile. La crisi per il settore tessile è arrivata prima rispetto alla crisi generale che sta investendo in questi anni tutti i settori. Anch'io oggi, quando parlo con altri imprenditori di altri settori in questo periodo specifico, mi sembra di esserci già passato, cioè le ho già passate tutte queste cose. Noi tessili, intendo in senso lato, questa crisi che oggi colpisce tutti l'abbiamo passata 10 anni fa e la stiamo ancora passando, quindi non è che è finita, diciamo. Però sicuramente un po' più di protezione, un po' più di attenzione da parte di tutti sarebbe stata importantissima, perché io non so dire quanti sono i posti di lavoro che abbiamo perso nel tessile, ma sicuramente parliamo di centinaia di migliaia. L'azienda si deve trasformare. Un progetto di ristrutturazione con investimenti da parte della famiglia e l'ingresso di un fondo di private equity. Il partner Riello ha messo al mio fianco un amministratore delegato di esperienza commerciale, con cui abbiamo fatto partire, abbiamo sposato il progetto a quel punto Bellora Brand, la marca. Abbiamo fatto ripartire, avevamo in quel momento uno spaccio a Fagnanolone, un negozio a Milano in via Vincenzo Monti, che sono i nostri fiori all'occhiello, i nostri due primi punti vendita, che andavano molto bene. E da lì è partito un progetto di sviluppo, di investimento sul mercato italiano. Quindi la collezione è diventata effettivamente la nostra collezione. Abbiamo cominciato a sviluppare un concetto di marketing, di immagine, di comunicazione. Quindi abbiamo sviluppato delle competenze che non avevamo, e abbiamo aperto dei negozi nostri diretti o in franchising. Oggi abbiamo 30 negozi in Italia e abbiamo aperto con Rinascente prima e poi con Coin dopo il loro piano di riorganizzazione, e oggi possiamo dire che abbiamo una distribuzione in Italia molto ben settata e sistemata, ecco. Nel 2007 questa prima fase va a buon fine e il socio di Private Equity pensa di uscire e di monetizzare il risultato. Giuseppe Bellora trova una nuova strada. E il socio di Private Equity è nel DNA del Private Equity quello di uscire, quindi avevamo una possibilità di uscita, fra l'altro prima della crisi, quindi 2007, siamo poco prima dell'inizio della successiva crisi più finanziaria, E quindi abbiamo lavorato insieme, anche qui devo dire con grande trasparenza, con Riello, e grazie alle mie conoscenze, perché io in quella fase ho seguito tutta la deindustrializzazione, quindi sono andato a cercare in quegli anni tutti i fornitori in Cina, Pakistan, Egitto, India, quindi mi sono mosso sul fronte del sourcing di qualità, cioè cercare i prodotti di qualità che potessero ben rappresentare, diciamo, il futuro dell'azienda. E in questa fase ho conosciuto, fra gli altri, anche questi imprenditori tessili, il gruppo Imazinga, che è un gruppo di Bangalore quotato, che produce i tessuti più belli per i più grandi marchi del settore dell'arredamento, e quindi era un nostro piccolo fornitore ma di altissima qualità. C'è stata questa sintonia e la famiglia Imazinga, in quel momento il padre, decise di entrare in bell'ora, quindi di sostituire il private equity, con un problema che abbiamo gestito, direi, molto bene insieme, che essendo una società quotata in borsa, e ovviamente la richiesta, la pretesa da cui non si poteva derogare era l'acquisto della maggioranza. Una decisione che Giuseppe Bellora prende, cedendo la maggioranza e mantenendo la guida dell'azienda. Per me è una decisione non facile, però io ho sempre lavorato per l'azienda, non ho lavorato per me stesso questi anni, e quindi la cosa più importante era salvare l'azienda, salvare i posti di lavoro e andare avanti mantenendo quello spirito e quel posizionamento, a questo punto posso dire, che è nella storia della Bellora. Oggi ha un partner indiano, una famiglia che produce tessuti di alto livello e che supporta l'azienda per l'export. Poi, fra l'altro, il socio che io ho scelto ha comprato delle aziende in America, quindi oggi noi siamo un'azienda che produce, faccio parte di un'azienda che produce in India prodotti di altissima qualità e vende in America, quindi noi siamo un po' il loro fiore all'occhiello, siamo l'azienda su cui in questi anni abbiamo dovuto fare un'operazione di ancora pulizia dei conti, perché comunque è cominciata una crisi molto forte in Italia che con Riello, diciamo, non prevedevamo. Una battaglia finanziaria combattuta a fronte di un progetto di espansione soprattutto all'estero, che oggi comincia a dare i suoi frutti. Quindi di fatto una battaglia finanziaria, una battaglia sul mercato italiano, perché poi noi lavoriamo con banche italiane, non lavoriamo con banche straniere, e un blocco del mercato italiano a fronte di un progetto di sviluppo estero che invece finalmente quest'anno, 2013, per noi è il primo anno che ho un budget in cui la crescita all'export è decisamente superiore alla prevista, a questo punto, decrescita italiana ulteriore, e quindi mi permette di avere un sorriso e una speranza in più, perché effettivamente abbiamo fatto delle annate molto, molto difficili. Oggi l'azienda fattura 14 milioni e c'è un importante progetto di espansione negli Stati Uniti. Il gruppo fattura 330 milioni in crescita, di cui due terzi in America. La Bellora fattura 14 milioni, l'anno prossimo abbiamo una previsione a 16,5 per arrivare a 20 milioni in 3 anni. Tutta la crescita di Bellora è tutta prevista all'estero, ma soprattutto in America, dove abbiamo dei grossi progetti già in fase avanzata, quindi già contratti, quindi per fortuna non sono aleatori. Prevediamo una piccola contrazione sul mercato italiano, soprattutto quello, diciamo, multimarca, dove c'è più sofferenza. Abbiamo 100 dipendenti, di cui 65 circa all'interno dei negozi e degli shopping shop, quindi persone commerciali che vendono il prodotto Bellora, e un 35 persone a Fagnano Lona che invece si occupano di tutta la fase di realizzazione del prodotto, sviluppo, marketing, gestione commerciale, back office, gestione dei negozi, visual, quindi tutto un'attività che oggi posso dire 10 anni fa non era così, 20 anni fa non era neanche ipotizzabile, 10 anni fa si intravedeva, oggi c'è, e non c'è più tutta quella parte invece di operai, di industria. Abbiamo cambiato pelle, abbiamo cambiato completamente pelle. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.